Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, di Europa parliamo, ma naturalmente con lo sguardo su quanto sta accadendo al Museo del Bardo, dunque a Tunisi, uno sguardo che poi è quello sul grande tema della sicurezza, almeno questa è la sensazione, gli ascoltatori si interrogano, riceviamo molti sms in questi minuti sull'atto terroristico piuttosto che il colpo di Stato, sono assolutamente domande legittime cui attualmente non abbiamo risposta, ma cercheremo appunto di averla nel corso del pomeriggio. Vi anticipo già che mentre ci occuperemo della normalità, dunque dello sport, degli impegni di Champions con Carlo Genta e i suoi ospiti, continueremo anche a tenere aperta una finestra sugli eventi in Tunisia con la nostra Marta Cagnola, che ci aggiornerà appena fosse necessario. Torniamo dunque invece alla normalità. La normalità europea oggi è fatta di fisco, di nuovo scambio automatico di informazioni. Partiamo di qui perché è stata presa una decisione importante che ci racconta Beda Romano. La Commissione europea ha presentato stamani un nuovo tassello per rendere più trasparente il fisco in Europa. Con una proposta legislativa, Bruxelles vuole imporre lo scambio automatico di informazioni sugli accordi fiscali che i Paesi membri concedono alle aziende, consentendo loro di ridurre il carico tributario. L'iniziativa, presentata oggi dal commissario agli affari economici e alla fiscalità, Pierre Moscovici, giunge dopo che alla fine dell'anno scorso è scoppiato lo scandalo LuxLeaks. Un'inchiesta giornalistica ha confermato che il Lussemburgo, ma non solo, ha per anni concesso a molte imprese generosi accordi fiscali, penalizzando di converso il gettito fiscale dei paesi vicini. Questi accordi, infatti, permettono alle società di spostare reddito da un paese all'altro alla ricerca della minore imposizione possibile. Moscovici ha quindi spiegato oggi di voler ricostruire il legame geografico tra percezione del reddito e imposizione dei profitti. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Moscovici, che tra l'altro sarà nostro ospite tra circa un'ora in un'intervista che poi appunto sentiremo nel corso della giornata. Giornata che ci porta dritti verso il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Di questo ha parlato questa mattina Matteo Renzi in Senato, lo farà poi nel pomeriggio alla Camera. Ha parlato di vari aspetti del progetto europeo, ha anche rivendicato il cambio di passo imposto con il semestre italiano. Sentiamo. La posizione dell'Italia dovrà essere molto forte, a mio avviso, sulla necessità di insistere sui punti che il Presidente Tusk per primo ci porrà a proposito del rafforzamento della sicurezza e inserire in questo ragionamento la rinnovata centralità africana e del rapporto con il Mediterraneo, ma accanto a questo anche evidenziare con decisione il fatto che l'appuntamento di Parigi del dicembre 2015 non può essere un appuntamento soltanto formale, il fatto che l'efficienza energetica debba essere un valore aggiunto anche per la creazione di nuovi posti di lavoro nella logica dei green jobs di cui più volte abbiamo parlato e che sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione tecnologica l'Europa deve essere all'avanguardia. Ed è tutto per l'Europa. Prima di chiudere però una conferma, almeno dall'ultima agenzia battuta sui fatti tunisini, ci sarebbero due italiani feriti in Tunisia nell'operazione che ha portato al sequestro di un gruppo di turisti. 100 italiani si troverebbero invece al sicuro dentro il museo, così riferiscono le fonti diplomatiche. Adesso è davvero tutto, vi aggiorniamo naturalmente nel corso dello spazio dedicato allo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.